solo amor, tutto per me sei tu, paradiso della mia felicità, sul tuo viso canta dolce ingenuità, ritorna con me, senza di te, più gioia in cuore non c'è. Perdendo il tuo sorriso, ho perso il paradiso, mio unico amor torna a me. T'ho voluto tanto bene, mai voluto tanto bene, cercavo te, sognavi me. Poi una mano sconosciuta ha rapita e t'ho perduta, senza di te la vita cos'è? Ritorna nel mio cuor, mio solo amor, tutto per me sei tu, paradiso della mia felicità, sul tuo viso quanta dolce ingenuità, ritorna con me, senza di te più gioia in cuore non c'è. Perdendo il tuo sorriso, ho perso il paradiso, mio unico amor torna a me. Ritorna con me, senza di te, più gioia in cuore non c'è. Perdendo il tuo sorriso, ho perso il paradiso, mio unico amor torna.